Valeria Novellini, quale vicenda ti ha appassionato di più? Quella di Unicredit, che ha visto questo clamoroso ingresso nel suo capitale di questo fondo russo-britannico dal nome spagnolo Pamplona, oppure il super piano industriale presentato ieri da Monte dei Paschi? Beh, direi sicuramente quello del Monte dei Paschi, perché per quanto riguarda Unicredit è abbastanza normale già da tempo la presenza di azionisti stranieri, in particolare il fondo di Abu Dhabi, che ha attualmente 6,5% del maggiore azionista, e alcune istituzioni libiche che hanno poco meno del 5% complessivamente, quindi di fatto è già una banca con una forte presenza straniera. Poi non dimentichiamoci che Unicredit nel suo statuto ha una clausola che impedisce di esercitare il diritto di voto per partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale. Non è a caso, infatti, secondo me, che la partecipazione del fondo Pamplona sia del 5%, anche se c'è l'opzione a salire più avanti, proprio perché oltre il 5% il diritto di voto è neutralizzato, quindi di fatto al momento la banca non è scalabile. Non è scalabile, e ovviamente lo potrà essere solo se qualche azionista raggiungerà la soglia minima dell'OPA del 30% e poi sarà ovviamente obbligato a lanciarla, ma siamo ancora molto lontani da questo. Allora, certo è che con le quotazioni raggiunte sia dal titolo Unicredit, ma per la verità anche da tutte le altre banche italiane, non è detto che poi anche questa eventualità si possa palesare nei prossimi mesi. Lo dice anche questa mattina Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, che per la seconda giornata torna sollevando l'attenzione su quello che sta accadendo in un editoriale che si intitola "Il paese è ricco di buone occasioni, le tante aziende nazionali a sconto". Racconta proprio della vicenda Unicredit, poi vi racconteremo su quale aspetto soprattutto Mucchetti solleva la sua attenzione. Ve lo anticipo già: il fatto che questo acquisto del 5% del fondo Pamplona in realtà è stato fatto grazie al prestito di una grande banca tedesca, che è Deutsche Bank, che ha un diritto di opzione su questo pacchetto, per cui se lo esercitasse diventerebbe Deutsche Bank azionista al 5% di Unicredit, quindi un grande socio tedesco nel capitale di Piazza Cordusio.